Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Psoriasi, dermatite atopica, vitiligine sono malattie infiammatorie della pelle sempre più diffuse e che possono essere trattate con successo con la fototerapia, che consiste nell'esposizione alla luce con particolari apparecchiature che permettono di irradiare il paziente o solo alcune zone specifiche del corpo. A Obiettivo Salute il professor Pier Giacomo Calzavara Pinton, direttore del Dipartimento di Dermatologia all'Università di Brescia e presidente SIDEMAST. La possibilità offerta dalla tecnologia adesso è quello di selezionare piccole bande diverse di luce solare e si è visto che alcune di queste bande sono più efficaci o più indicate in una patologia rispetto all'altra e che i risultati che si possono ottenere sono del tutto sovrapponibili a quelli che si possono ottenere con le terapie mediche, farmacologiche, sia orali che locali, più avanzate, e dall'altra parte però non ci sono evidentemente effetti dannosi a livello sistemico. Le indicazioni principali di una o dell'altra fototerapia sono la psoriasi, dermatite atopica, l'acne, tutte le patologie con prurito, poi tutte le forme anche di alcune forme di tumori della pelle. La fototerapia può essere utilizzata nel trattamento dei tumori cutanei. Ascoltate l'approfondimento del professor Calzavara Pinton sulle pagine di Obiettivo Salute. La fertilità si nutre anche a tavola. A Obiettivo Salute il professor Alessandro Palmieri, presidente della Società Italiana di Andrologia, ci spiega come costruire un menù amico della fertilità. Oggi è abbastanza noto che esistono tutta una serie di alimenti che possono aiutare il lavoro di noi medici per quanto riguarda la sessualità dell'uomo e in particolare la fertilità maschile, quindi sicuramente abbiamo un via libera ad alimenti come agrumi, pomodori, carote, tutti alimenti ricchi di vitamine, invece no agli eccessi di alimenti piccanti, di alcolici e di cibi grassi. Però qui va fatto un distinguo, perché dei grassi come quelli contenuti nel pesce, ed in particolare il pesce azzurro, gli omega 3, sono preziosi per il nostro organismo. E per oggi è tutto, la programmazione di Radio 24 continua come sempre con Melog, io invece vi aspetto in diretta video tra poco per parlare della salute delle nostre mani, un vero e proprio organo da proteggere, preservare e mantenere in salute. A tra poco e noi ci sentiamo come sempre domani a mezzogiorno quando scocca l'ora della salute. Statemi bene, una buona giornata da Nicoletta.